in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani di questa prima domenica di dicembre. Cominciamo come sempre con il Sole 24 Ore, che dedica l'apertura a una lunga intervista che poi trovate a pagina 3 al presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Confindustria, lo sapete bene, è il gruppo che controlla questo giornale, questo gruppo editoriale, quindi anche Radio 24. Il titolo dell'intervista è "In gioco il futuro dell'Italia, priorità a lavoro e crescita". Quindi un po' una dichiarazione di intenti o comunque una specie di super memo per il governo, questo che è in scadenza e naturalmente il prossimo che si formerà dopo le elezioni di primavera, per riassunto ancora una volta questo promemoria in queste parole: nessuna retromarcia, il paese e le imprese hanno reagito. Questo è il pensiero di Boccia sulle riforme, le riforme che finalmente dopo tanti anni sono state avviate nel nostro paese. In prima pagina anche la fotonotizia, lo avrete sentito, però appunto vedere è ancora meglio, di questo ritorno annunciato e che si concretizzerà in futuro dell'Alfa Romeo in Formula 1. Per tanti anni l'Alfa Romeo appunto aveva rinunciato alla Formula 1 del gruppo FCA, naturalmente c'è la Ferrari in Formula 1 e ieri Sergio Marchionne, amministratore delegato del gruppo FCA, appunto ha confermato le indiscrezioni dei giorni scorsi. Poi naturalmente il tema delle riforme fiscali, quella appena approvata negli Stati Uniti, l'ha approvata il Senato, la borsa americana comunque nella settimana che precedeva questa approvazione finale, che era nell'aria visti i numeri che Donald Trump era riuscito a costruire al Senato, la borsa americana è ai massimi da 30 anni. C'è un doppio editoriale, uno è di Mario Platero, La svolta fiscale, Washington rischia ma anticipa la storia, e l'altro è di Alessandro Galimberti, Una sfida lanciata al resto del mondo. Sapete, questo è un taglio fiscale, è una, possiamo dire così, è una scuola anche fiscale, una scuola economica, quella di tagliare le tasse per stimolare l'economia. Quanto ne abbiamo sentito parlare in Italia? Naturalmente in Italia abbiamo una specie di elefante nella stanza, che è l'evasione fiscale, perché è veramente difficile pensare a un taglio delle tasse in Italia con i dati che sappiamo sulle dichiarazioni dei redditi che abbiamo nel nostro paese, appunto sui livelli dell'evasione fiscale. Vi dicevo, l'intervista Boccia la trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore. La prima pagina del Corriere della Sera invece è una, anche in questo caso, un riferimento a un'intervista. L'intervista è al ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Il virgolettato scelto per titolare l'intervista: "I veti locali bloccano l'Italia". Naturalmente lo spunto più forte di questi giorni, lo spunto di cronaca, è il caso dell'Ilva, l'acciaieria di Taranto, ma questo tema dei veti locali che bloccano l'Italia, naturalmente possiamo ricollegarlo a centinaia di altri casi degli ultimi anni. Un'altra intervista che viene richiamata in prima pagina, di Aldo Cazzullo a Carlo De Benedetti, potremmo chiamarla quasi una affettuosità giornalistica se non editoriale, perché sapete Carlo De Benedetti è l'editore del principale concorrente del Corriere della Sera nel campo dei giornali generalisti, che è Repubblica. Il titolo di questa delusione, di questa intervista, è "Renzi è una delusione e su Berlusconi Scalfari sbaglia". Il riferimento è all'intervento di Eugenio Scalfari alla trasmissione della 7 di martedì di Giovanni Floris, dove aveva detto che essendo costretto a scegliere tra Berlusconi e il Movimento 5 Stelle, preferirebbe Berlusconi. E apriti cielo, ma su Repubblica Scalfari non è mai tornato su questa questione. Lo hanno difeso invece l'attuale direttore di Repubblica, Mario Calabresi, e l'ex direttore Ezio Mauro, e adesso invece appunto il tema salta di nuovo fuori nell'intervista di Carlo De Benedetti. La fotonotizia, il grafico notizia del Corriere della Sera, è un'immagine bellissima però anche inquietante del nostro pianeta, un'immagine scattata da un satellite che mostra i veleni a bassa quota che respiriamo. L'articolo poi lo trovate a pagina 23 di Giovanni Caprara, e naturalmente si occupa appunto dell'inquinamento, di tutti i tipi di inquinamento, compreso il famoso ozono, che affliggono il nostro pianeta e dei quali siamo, ormai gli scienziati sono abbastanza concordi, siamo responsabili noi esseri umani. La Repubblica, Nazi, cresce l'onda nera, Veltroni fermiamola, anche in questo caso in un certo senso il titolo principale è un'intervista, perché poi questa dichiarazione di Veltroni è appunto l'intervista che trovate a pagina 2 e 3 della Repubblica. Il riferimento a questa onda nera naturalmente è alla bandiera neonazista che si è intravista in una caserma di Firenze ieri. La fotonotizia però è dedicata alla riforma fiscale, in particolare vengono fotografati i manifestanti che sono contrari a questa riforma fiscale, che taglia sostanzialmente le tasse a chi ha un reddito più alto e poi contiene questo grande pericolo per le spese sanitarie. Sapete che in America Obama nei suoi 8 anni era faticosamente riuscito a introdurre una riforma sanitaria che semplifichiamo naturalmente, perché è un sistema talmente diverso da quello italiano e da quelli europei che è difficile da riassumere in poche parole, però aveva esteso le cure sanitarie di base a molte persone che altrimenti non vi avrebbero avuto accesso. C'è una retromarcia nell'amministrazione di Donald Trump e in questa riforma fiscale si toccano anche le misure che riguardano appunto l'assistenza sanitaria. Da qui anche, oltre a chi festeggia, parrebbe, Wall Street, c'è anche chi protesta, e questa è la fotografia della prima pagina di Repubblica. Ci fermiamo però un attimo per gli aggiornamenti anche sul meteo e ci troviamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e intanto grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o WhatsApp o SMS, e in particolare all'ascoltatore che dice: l'elefante nella stanza in cui si discute, possiamo dire così, di tagli fiscali non è l'evasione, come ho detto io, ma il debito pubblico. In realtà il debito pubblico americano è tra i più alti al mondo, sia in valore assoluto che in percentuale, quindi personalmente resto convinta che il esportare un modello di taglio delle tasse in Italia è problematico soprattutto per questo elefante che è l'evasione fiscale. Detto questo però torniamo proprio su questo tema, sulla Stampa che apre sulla rivoluzione delle tasse in America, e secondo l'interpretazione della Stampa nel titolo è anche proprio una sfida all'Unione Europea di Trump, perché dal 2019 l'aliquota per le imprese scenderà dal 35 al 20% negli Stati Uniti. Molto interessante, come sempre ogni domenica, l'editoriale del direttore Maurizio Molinari, che ci porta a parlare di Siria, della quale non parliamo più come se tutto fosse risolto. Naturalmente non è così, anzi il dopoguerra potrebbe essere ancora più rischioso della guerra in un certo senso, ed è proprio di questo che Maurizio Molinari scrive: Putin in Siria, la trappola del dopoguerra, i rischi della ricostruzione. La fotonotizia però è completamente diversa da quella degli altri giornali, perché nel febbraio del 2018 si terranno in Svezia alcune gare del mondiale di nuoto, e la fotonotizia è di uno svedese che nuota proprio in questi giorni in acque che, come potete immaginare, sono sotto zero. Scandinavia, la passione del bagno d'inverno. Il Messaggero si concentra a sua volta su Trump nei guai ma vince sul fisco, il riferimento naturalmente è al cosiddetto Russiagate, ne vedremo l'evoluzione nei prossimi giorni, però intanto c'è questo maxi taglio di tasse che è passato al Senato, pensate vale, si calcola 1.400 miliardi. E in questa visione economica degli effetti del taglio fiscale naturalmente serve per rilanciare l'economia, la produzione, avete visto per esempio con un'aliquota che scende di 15 punti per le imprese. La fotonotizia anche in questo caso è il ritorno dell'Alfa Romeo in Formula 1, e poi una notizia che non ho trovato su alcun altro giornale e tra l'altro mi stupisco un po' di non averla vista sull'Avvenire, che ha seguito questa vicenda molto da vicino, Torino, ed è la riforma sui giochi e le slot machine. C'è stato un vertice al Ministero del Tesoro e questa riforma è arenata, perché porterebbe a un buco di oltre 2 miliardi. Naturalmente sappiamo che è una stretta sui giochi, che per lo Stato sono una fonte importante di gettito fiscale, vorrebbe dire appunto rinunciare a una quota di entrate fiscali. L'Avvenire apre su una questione completamente diversa, perché ieri sono stati assegnati i premi per soprattutto il volontariato, e quindi sono state premiate soprattutto delle donne, Solidarietà e Pace, nomi al femminile. Premiate una cooperante in Tanzania, un medico eritreo di Milano e marocchina torinese. E poi ci sono tutti i risvolti di quel volontariato, soprattutto all'estero, con tutti i fronti che per l'Avvenire, per il Vaticano, risultano aperti. La fotonotizia però è dedicata alla conclusione del viaggio di Papa Francesco in Asia, che si è concluso in particolare in Bangladesh, e con una fotonotizia intitolata così: il Papa, accettare le differenze e mai chiudersi. Libero: Trump abbassa le tasse, il nostro governo le alza. E sarebbero anche governi di orientamento politico molto diverso, quindi non è un titolo così strano, o meglio il titolo è strano, ma la sostanza forse non è così strana. Invece, secondo Libero, siamo fuori dal mondo. Il presidente USA abbatte le aliquote, aumenta gli sgravi familiari, Gentiloni semina balzelli in manovra. Un editoriale di Antonio Socci, che inizia in prima pagina e poi prosegue a pagina 12, intitolato «Perfino i cardinali non vogliono immigrati». Naturalmente si tratta di alcuni immigrati, di cui Antonio Socci ci ricorda generosamente alcuni virgolettati, che appunto, secondo l'interpretazione di Socci, sarebbero contro gli immigrati, mentre sappiamo Papa Francesco non perde occasione per dire quanto è importante per un vero cristiano, questo è il parere del pontefice, essere invece favorevoli, aiutare chiunque scappi dal suo paese per cercare una vita leggermente migliore in un altro paese, per esempio in Italia. E appunto a pagina 12 trovate tutto questa carrellata, secondo Socci, di pareri contrari alla linea di Papa Francesco. Il Papa spinge per lo ius soli, ma è una posizione che crea dissensi nella Chiesa, è un'ingerenza che rischia di creare problemi nei rapporti con lo Stato italiano. Il Giornale: lo Stato ristupra la dottoressa stuprata, sicuramente un titolo molto forte, però sono d'accordo, è proprio un caso di, come scrive il Giornale dell'Occhiello, di burocrazia mostruosa, perché in Italia si hanno solo 6 mesi per denunciare uno stupro. Se si superano questi 6 mesi, la denuncia praticamente è inutile. La donna ha denunciato la violenza in ritardo, perché questo è il linguaggio della burocrazia, e il criminale è libero e non potrà più essere processato. La Verità: il babbo della Boschi di nuovo indagato, si fa riferimento appunto a tutte le indagini che riguardano il padre dell'ex premier Matteo Renzi. La fotonotizia però è dedicata a Dijsselbloem, il commissario europeo, che viene accusato dalle tesi della Verità di essere assolutamente corresponsabile delle crisi delle banche. E il ritratto che poi ci fa Mario Giordano di questo signore a pagina 8 viene intitolato «Questo signore in tasca 14.000 euro al mese per aver distrutto le banche europee». Il Manifesto ha un titolo completamente diverso, dedicato alle manifestazioni che ci sono state ieri indette dalla CGIL, ma che poi ha anche fatto appello all'unità sindacale, quindi a CISL e UIL, per avere una posizione comune, soprattutto sulla questione molto difficile dell'innalzamento dell'età pensionabile. I conti in rosso. La foto è stata scattata a Roma in Piazza del Popolo, però, scrive il Manifesto, da Torino a Palermo, da Roma a Bari e Cagliari, in migliaia la giornata di protesta della CGIL contro la riforma delle pensioni per il lavoro. Il Fatto Quotidiano ha una doppia copertina, la prima no grazie, e il riferimento è a una un anniversario, potremmo dire così, 4 dicembre 2016, 4 dicembre 2017, cosa successe il 4 dicembre 2016, lo ricordiamo, lo ricordate sicuramente, si votò per quel referendum di riforma costituzionale a cui la maggioranza dei votanti disse no, e così poi seguirono le dimissioni dell'allora premier Matteo Renzi. La copertina vera e propria, perché questa è una specie appunto di doppia copertina, quindi qui ci sono quattro pagine di approfondimento su questo tema. Invece il Fatto Quotidiano a sua volta torna sulle inchieste sul padre di Matteo Renzi. Renzi e Boschi, rispondete a 10 domande, e che riguardano soprattutto le banche. Ma passiamo alle pagine interne. Torniamo sul Sole 24 Ore, perché Carlo Bastasin torna sulla questione della Germania, perché anche qui ne parliamo poco, ma in Germania sta succedendo questa cosa molto strana, inedita per i tedeschi. Non c'è un governo, perché come sapete dalle ultime elezioni politiche non è uscita una maggioranza in grado. La CDU di Angela Merkel ha vinto le elezioni, ma siccome la SPD di Martin Schulz ha deciso di non rifare la grosse coalizione, Angela Merkel non è ancora riuscita a formare un governo. La cancelliera e i fantasmi di Weimar, questa è l'analisi di Carlo Bastasin. Angela Merkel e Wolfgang Schäuble potrebbero aver trovato nell'astro nascente della SPD Andrea Nahles la sponda per rilanciare il bipolarismo tedesco. Infatti abbiamo detto che l'attuale leader della SPD Martin Schulz aveva detto che una nuova grosse coalizione, cioè grande coalizione tra il più grande partito di centrodestra, che è la CDU, e il più grande partito di centrosinistra, che è la SPD, non la voleva più. In realtà forse questo nuovo esponente della SPD, o come lo definisce Carlo Bastasin, astro nascente della SPD, potrebbe invece far cambiare idea ai vertici del partito. Dietro le trattative per la formazione del nuovo governo si gioca la partita contro il nazionalismo, da qui il richiamo a Weimar, sapete, la Repubblica di Weimar, l'ultima forma di governo democratico prima dell'ascesa di Hitler in Germania prima della Seconda Guerra Mondiale. Imprese e territori, la copertina di Imprese e territori ha invece un approfondimento molto interessante sul passaggio generazionale. Cati Mandurino ci riassume. Katie Mandurino, scusatemi, perché giustamente Katie dice così si pronuncia il mio nome, quindi scusa Katie, ero sovrappensiero. Katie Mandurino ci racconta così l'innovazione cambia governance di padre in figlio. Quindi questo tema, che è sicuramente parte di quella rivoluzione che chiamiamo Industria 4.0, e in Italia il passaggio generazionale è sicuramente un nodo molto importante. E Barbara Ganzi invece ci racconta una storia bellissima da Treviso, che questo gruppo che si chiama Asolana Group ha rilanciato la gipsoteca di Possagno, fornito tecnologie interattive. Parla il presidente dell'azienda, l'amministratore delegato dell'azienda, Marco Zanesco, che dice: ho adottato il Canova per farlo rivivere in 3D. Ci fermiamo un attimo però per l'ultima pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Ancora un paio di segnalazioni dalle pagine interne dei giornali, poi passiamo ai supplementi domenicali, visto che spero tutti abbiamo un pochino più di tempo di domenica per dedicarci appunto ai supplementi domenicali, che ci fanno viaggiare un po' la mente, a volte lontano dalla cronaca che non è proprio allegra di questi tempi. Vi segnalo appunto un'ultima cosa dal Corriere della Sera, un'intervista a Paola De Micheli, che è il commissario straordinario per il terremoto, ed è un'intervista secondo me impressionante per le risposte che De Micheli dà, ma soprattutto per il senso che è: le casette per i terremotati arriveranno entro Natale, il ritardo c'è ma i fondi non mancano. Ma e un altro virgolettato è: qualche risultato si vede, non alimentiamo sentimenti di sfiducia. Io che dichiarazioni sono? Cioè, queste persone le richieste di case sono altissime rispetto a quelle consegnate. Sta arrivando il freddo, sta arrivando il gelo in tantissime di queste zone, è passato più di un anno dal terremoto e ancora siamo in questa situazione. Chiede Mario Sensini: la ricostruzione intanto è ferma, in un anno sono state presentate 1000 domande di contributo e approvate 100, a fronte di 60.000 case da sistemare o ricostruire. Di questo passo, a conti fatti, ci vogliono 431 anni. E Paola De Micheli risponde: c'era l'esigenza di rendere concreta la normativa, ora l'abbiamo fatto e non dovrebbero esserci più grossi intoppi. I tecnici incaricati dai privati avranno le matrici per calcolare in anticipo il contributo dello Stato. La gara tra le imprese candidate a eseguire i lavori si potrà fare alla fine, a domanda approvata. Presto faremo una nuova ordinanza per chiarire tutte le modalità della ricostruzione delle case più danneggiate, ripeto, a quasi un anno e mezzo dal terremoto. Un'ultimissima segnalazione dal Corriere Salute, molto interessante perché riguarda la comunicazione tra medico e paziente e quello che il Corriere della Sera definisce il potere dell'ascolto, citando anche Ippocrate, uno insomma che viene definito colui che ha rivoluzionato, e parliamo di un medico che ha vissuto tra il 460 e il 377 avanti Cristo, che ha rivoluzionato il concetto di medicina definendola una professione. E Ippocrate diceva: la vita è breve, l'arte lunga, l'occasione fuggevole, l'esperienza fallace, il giudizio difficile. E credo valga ancora per i medici di oggi. A proposito di medici, una bellissima intervista di Michele Bocci a Paolo Zamboni, che è direttore del Centro Malattie Vascolari dell'Università di Ferrara, che parla proprio dell'incertezza che a volte devono affrontare i medici anche nelle loro ricerche, anche quando sono convinti di essere sulla strada giusta. Il titolo della bella intervista è: da eretico ho fallito e ricomincio da qui. Aveva messo a punto infatti un metodo contro la sclerosi multipla, però è un metodo che poi alla prova dei test, e questo è il bello della scienza, che appunto deve essere, qualsiasi scoperta deve essere, o invenzione deve essere sottoposta a test. E dice Paolo Zamboni: la mia vita va avanti, anche se i test hanno bocciato quella che io speravo essere una grande evoluzione nella cura della sclerosi multipla, ma la mia ricerca va avanti e non per il profitto. Passiamo però ai supplementi della domenica e cominciamo come sempre da quello del Sole 24 Ore, la domenica del Sole 24 Ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana è una citazione di Leo Longanesi, si intitola Principi. Non bisogna appoggiarsi troppo ai principi, perché poi si piegano. Il suo motto più famoso, divenuto quasi un vessillo, è stato il lapidario: la nostra bandiera nazionale dovrebbe recare una grande scritta, O famiglia. Questa sigla ideale italiana potrebbe commentare anche l'altro aforisma che abbiamo sopra citato, desumendolo dalla raccolta satirica Parliamo dell'elefante di Leo Longanesi, scrittore e giornalista sempre caustico nei confronti dei vizi italici. Difficile dargli torto, perché i più fieri assertori dei principi sono i primi a usarli come bastoni per appoggiare e sostenere il loro zoppicare morale. Proprio per questo, ironicamente, Oscar Wilde confessava: «Non amo i principi, preferisco i pregiudizi». Tante volte, infatti, più che su verità da custodire, ci affidiamo a luoghi comuni da sfruttare. Ci sono comunque due estremi, entrambi pericolosi. C'è appunto chi adotta enfaticamente un principio come alibi per tutelare un suo interesse, svuotandone così l'anima etica genuina. Ma c'è anche chi imbraccia il principio come un'arma per colpire gli altri, una tragica esperienza a cui il fondamentalismo ci ha assuefatti. In sintesi, basterà evocare un'ultima parola che invece si cerca di tenere lontana: coerenza etica. La copertina vera e propria, però, è un lungo articolo di Angela Vettese che, a Biennale di Venezia, Biennale dell'Arte conclusa, dopo sei mesi, c'è un bilancio molto positivo. Il titolo è: Biennale, con te facciamo i conti. Cifra alla mano, la 57esima edizione della Kermesse veneziana ha registrato un grande successo, e Angela Vettese compie questo piccolo viaggio tra le ragioni di questa affermazione. Molto interessante l'articolo di Michelangelo Zaccarello, che insegna filologia, letteratura e linguistica all'Università di Pisa, Bugiardo come un libro online. Il senso di questo articolo è che questo studioso ha analizzato le moderne edizioni elettroniche di molti libri, scoprendo che c'erano testi molto diversi in forma e sostanza da quelli accreditati nelle edizioni cartacee. Fin quando prevarrà la logica del costo zero, naturalmente di quello che si trova online, è difficile sperare che la certificazione sia svolta da chi mette in rete libri digitali. L'unico antidoto sono i lettori. Naturalmente si avvicina la prima della Scala, che sarà giovedì, che è il giorno di Sant'Ambrogio, il santo protettore di Milano. E quindi il Sole 24 Ore, come ogni anno, dedica 4 pagine a questa prima della Scala e alla stagione, in generale alla stagione lirica 2017-2018. Un altro articolo di Gianfranco Ravasi, ve lo segnalo sempre sul Domenicale, è bellissimo secondo me, ma credo sarà bellissimo per qualsiasi lettore, accanito o no. Si intitola Vivere e volare con i libri. Leggere, studiare, approfondire è una cura spirituale, ma anche un autentico piacere per la mente. Non ci stancheremo mai di sostenerlo. Un bell'articolo di Leonardo Martinelli, una voce che Radio 24 conosce bene. In questo momento Leonardo è a Parigi, scova sempre delle storie interessanti. Questa settimana ha parlato con un botanico, Patrick Blanc, che racconta come sono nate le sue famosissime pareti ricoperte di specie vegetali, dove utilizza piante che si sviluppano in habitat quasi solo verticali. Il titolo: Se la vita è un muro da innaffiare. La lettura del Corriere della Sera affida la copertina a un artista che il destino ha voluto poi scomparisse proprio 2 notti fa, è Tino Stefanoni, che aveva disegnato questa copertina per la lettura. Dall'interno un interessantissimo articolo alle pagine 2 e 3, una lettera aperta di Guido Tonelli, che è uno scienziato del CERN di Ginevra, intitolato La scuola deve usare il cervello, quindi le sue suggestioni per riuscire a migliorare la scuola italiana, che secondo molti continua ad avere comunque delle basi buone. E a proposito di scienza e di approccio scientifico alle cose, di Semir Zeki, che è docente di neurobiologia a Londra, un altro bell'articolo: La bellezza è una scienza. E spesso la percezione, il senso di questo articolo, spesso la percezione di ciò che è piacevole e affascinante è considerata un'esperienza soggettiva, no? Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, ma invece si scopre che c'è un'area del cervello che è sempre implicata in questo processo e la cui attività è misurabile. Conclusione: aveva ragione Platone, la matematica è la forma più alta del sublime. Ultimissima segnalazione, prima di lasciarci augurandovi una buona domenica, la copertina di Robinson, il supplemento della Repubblica, interamente dedicata agli audiolibri, che è sicuramente un modo diverso di leggere, perché si ascolta qualcuno che li legge per noi. Ascolta il tuo libro, conquistano gli under 30, si leggono con le cuffie, guida al fenomeno degli audiolibri. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Filippo Aureggi in regia, un grazie ancora a tutti gli ascoltatori che hanno mandato messaggi e una buona domenica da Giulia Crivelli.